de sembri tu, oh luna che cominci già a spuntare, nel cielo pien di magico splendor, tu vieni ancora a farmi ricordar il mio perduto amor. Che mi sorridi verde luna, tu che già conosci la mia pena, sai che attendo che mi sta lontano, verde luna, ma l'attesa è vana. Sorridi verde luna, dille che nel cuor non ho nessuno, dille che io l'amo più di prima, verde luna, forse allora tornerà. Sai che attendo che mi sta lontano, verde luna, ma l'attesa è vana. Tu che le sorridi verde luna, dille che non ho ne do nessuno. Che io l'amo più di prima, verde luna, forse allora tornerà.